Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Mi trovo a Genova, al Salone della Nautica. Industria quella nautica molto importante per l'Italia. Siamo il secondo paese al mondo per fatturato, il primo per l'export. 90% di quello che produciamo nel nostro paese viene poi esportato. Stiamo parlando di nautica da diporto e qui davanti a me c'è Stefano Pagani, che è responsabile dell'ufficio studi di Ucina, quindi l'associazione industriale che si occupa della nautica. Benvenuto. Grazie. Allora, cerchiamo di capire un po' quali sono le innovazioni che sono state anche presentate anche poco fa ad un convegno qui al Salone Nautico di Genova. Intanto partirei da un tema forse quasi ovvio, quello delle motorizzazioni, no? delle navi. Sappiamo tra l'altro che le grandi navi, quelle che trasportano le merci, sono anche responsabili di una quota non banale dell'inquinamento per varie ragioni, compresa la difficoltà di controllare, no? In mezzo all'oceano le emissioni di una nave. Il mondo del diporto è un mondo diverso e mi ha colpito anche camminando, insomma, qui per le strade del Salone Nautico, vedere che la motorizzazione elettrica c'è, è presente. Cosa sta succedendo? Ma succede che il mondo della nautica è un mondo da sempre attento, come dire, all'ambiente, perché il diportista è il primo amico dell'ambiente, in quanto non andrebbe di certo mai a navigare in un mare inquinato. Quindi l'attenzione a essere... Se lo vuole godere il mare. Se lo vuole godere lo vuole e buono. Chiaramente vuole navigare nel migliore dei modi. Quindi negli ultimi anni abbiamo assistito a un'evoluzione notevole del mondo della propulsione. Motori ibridi, motori elettrici si stanno affacciando e stanno diventando una consuetudine che si vede qua al Salone, abbiamo tantissimi esempi. E quindi diciamo che la propulsione tradizionale a combustione, insomma gasolio, è il modo più comune, si sta piano piano trasferendo su sistemi ibridi, quindi gasolio elettrico, in modo da assicurare al diportista anche un comfort. Ecco, perché quali sono i vantaggi? Al di là del fatto di voler andare in giro con un mezzo che inquina poco, c'è quasi una moda benvenuta in questo caso, no? Quella dell'attenzione per l'ambiente, ma ci sono anche dei vantaggi nella vita del diportista? Ci sono vantaggi indubbi, ad esempio quello di poter stare in rada senza avere il motore acceso, quindi senza nessuna emissione, senza rumore, e semplicemente con il silenzio e il rumore delle onde. Poi gli altri vantaggi possono essere proprio quelli di fruizione. Ormai ci sono tantissime, giustamente, aree protette nei nostri mari, nei mari del Mediterraneo, per cui con una motorizzazione elettrica riesco a entrare e posso godermi nel silenzio tutta la bellezza della nostra costa. Mi viene da farti una domanda, come sai, sul tema dell'elettrico in ambito automobilistico c'è il problema di dove fare il famoso rifornimento. Ecco, da questo punto di vista il sistema dei porti può adattarsi facilmente a una motorizzazione elettrica? Ma chiaramente i porti si stanno evolvendo verso tutti quelli che sono i trend di innovazione tecnologica delle barche, per cui diciamo che non c'è un problema di offerta, nel senso che segue direttamente la domanda. Quindi sicuramente nel Mediterraneo, dove ci sono i porti più belli del mondo, non c'è questo problema e quindi gli approvvigionamenti sono assicurati. L'evoluzione nel mondo della propulsione non ha a che fare solo con i motori. Intanto vedo barche con delle forme mai viste, anche solo gli scafi. È sorprendente che dopo millenni ci sia ancora qualcosa da scoprire sulla fluidodinamica delle barche, ma qui c'è una novità molto affascinante. Certo, ma effettivamente lo studio della forma delle carene è in continua evoluzione e lo vedremo ancora per i prossimi anni sicuramente, però anche a livello delle tipologie di propulsione classica è da un paio d'anni che assistiamo all'applicazione a sistemi che erano come dire, destinati solo a unità più piccole, anche ai super yacht, quindi a barche sopra i 24 fino ai 30 metri e oltre. Sono soprattutto i sistemi PS, quindi dei sistemi a eliche traenti che riescono a abbattere i consumi di anche il 30%, a mantenere una stabilità molto superiore rispetto ai sistemi tradizionali, e hanno anche il vantaggio di poter essere comandati da un joystick. Quindi io praticamente con un joystick riesco a muovere la mia barca, a manovrarla e a tenerla anche immobile senza alcuna vibrazione. Per cui questo è un po' il futuro. Ecco, quindi al posto di esserci la solita elica dietro la barca che spinge la barca, ci sono più eliche, se ho capito bene, posizionate in modo intelligente. C'è un sistema di eliche che riesce a governare nel modo migliore la posizione e tutto il sistema di trazione, in questo caso, dell'unità. Dunque, parliamo di materiali, visto che così siamo un po' sul tema ambientale. Allora, ci sono degli animaletti che si attaccano, stanno benissimo, tutti quelli che hanno una barca o ne gestiscono una, ci sono degli animali di ogni tipo che si attaccano alla carena, nell'arco di un paio d'anni diventa una barriera corallina, una carena lasciata a se stessa, allo scafo della barca. Ecco, qui ci sono delle novità. Ma le novità sono dovute sia a questioni regolamentari, per cui tutto il mondo delle antivegetative che si devono applicare continuamente sugli scafi. Cioè, sono queste pellicole, a che cosa servono? Ma le antivegetative sono vernici che permettono appunto che non si attacchino allo scafo alghe o colonie di microorganismi. Quindi i sistemi possono essere alternativi, si stanno studiando, sono vari, da quelli come abbiamo presentato questa mattina in un convegno di un'azienda italiana, tra l'altro, che ha studiato il modo di applicare delle pellicole che sostituiscono queste vernici, quindi senza avere tutti gli svantaggi di tipo ambientale delle vernici antivegetative, oppure altri sistemi di ricerca che prevedono l'applicazione di nanomateriali che non permettono che questi microrganismi si attacchino proprio in maniera fisica allo scafo. Mentre uno, diciamo, probabilmente basato su qualche sostanza che tiene lontane questi esseri, diciamo, la seconda proprio è come se fosse troppo viscida la superficie per consentirgli di attaccarci. Sì, è proprio così. Qualche novità si vede anche nell'ambito delle tecniche di costruzione. Assolutamente. La nautica è un mondo in cui l'evoluzione tecnologica è sempre elevatissima, anche perché, soprattutto per il mondo degli accessori italiani, che è forse il più evoluto in tutto il mondo, c'è bisogno di essere competitivi sul mercato. Tra questi sistemi, di cui abbiamo anche qua in fiera alcuni esempi, uno dei principali è quello di capire come sarà lo scafo del futuro, quindi non più una laminazione tradizionale dei materiali compositi della vetroresina, che insomma hanno anche problematiche sia di costo per gli stampi sia di tipo ambientale, perché le persone che fanno la laminazione comunque devono stare in... Ecco, non so quanti sanno come funziona, insomma, no? Come si fa una barca in vetroresina, ma fondamentalmente si mettono queste specie di tessuti e poi gli si spalma sopra, no? Delle resine che a seconda della rigidità che devo dare allo scafo, devo dare più una o più mani. In questo modo invece ci sono nuove tecniche, ad esempio delle stampe di additive manufacturing in 3D che si stanno iniziando a studiare adesso, per cui sicuramente tra qualche anno vedremo dei robot che creeranno degli scafi senza aver bisogno né di stampi né di manodopera, con tutti i vantaggi che ne consegue anche dal punto di vista meccanico delle strutture. Con una operazione quasi di filatura, di cui poi parleremo possibilmente in una delle prossime puntate. Un altro aspetto che mi piacerebbe capire è se sta succedendo nel mondo della diportistica qualcosa di simile a quello che si sta vedendo in altri mondi, come per esempio quello della mobilità. Penso a fenomeni come Uber, penso a fenomeni come il car sharing in generale, cioè se questo mondo sta cominciando a ragionare anche in questi termini. Assolutamente sì, la sharing economy sta arrivando e sta entrando in porto anche nella nautica. Ci sono tantissime start-up, sia in Italia sia in Europa, che prevedono, come dire, la condivisione delle barche. Sia per il charter, sia proprio per l'utilizzo condiviso di una barca di proprietà. Chiaramente ci sono ancora problemi di tipo regolamentare. Ecco, infatti volevo capire qua... In Italia, ad esempio, non è ancora effettivamente possibile, però in altre nazioni, e visto che le barche si muovono, chiaramente... sì, sono fatte apposta. Diciamo che il problema non si pone. Comunque sia, questa è una situazione che deriva anche un po' dall'evoluzione socio-economica del diportista, nel senso che le nuove generazioni, come per tutta l'economia, non sono più avvezze all'acquisto del prodotto, quindi in questo caso la barca, e quindi preferiscono condividere. Quindi questo cosa porta? Porterà anche a differenze per il futuro per chi produce le barche, perché in questo caso magari ci saranno delle flotte che dovranno essere gestite magari dagli stessi costruttori e dagli stessi cantieri per riuscire a fare una sharing economy anche a vantaggio dell'industria nautica. Esattamente lo stesso tipo di fenomenologia che si comincia a vedere nel settore automobilistico, peraltro. Va bene, grazie Stefano Pagani. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.